molesta, ma prego assai il Signor, vivo sola, soletta, là in una bianca cameretta, guardo sui tetti, che la viene fuori d'ora a incorrere.